dico di no. Me ne sono chiuso in casa e non ti aprirò. Da domani smetto sul più bello. Da domani salgo di livello. Quante volte ho provato a ragionare. Quante volte te l'ho scritto per farmi notare. Sentimento, vorrei dirtelo davanti, ma non me la sento.